perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. Ci sono problemi per il maltempo nello Spezzino. Sarebbero state evacuate una scuola e una banca. Per il momento arrivano notizie tranquillizzanti dal sindaco. Vi aggiorneremo tra un attimo. In Francia intanto rientra l'emergenza per la piena della Senna. 20.000 case senza elettricità. Siamo agli ultimi fuochi di campagna elettorale. Poi 24 ore di silenzio. Al voto domenica fino alle 23 per le amministrative. Si indaga sulla ragazza di Milano trovata morta, dubbi sul fidanzato, è arrestato un uomo con armi da taglio, stava andando a casa della ex. Un nuovo naufragio di migranti, questa volta in Grecia, sono state salvate centinaia di persone, ci sono stati anche scontri al campo accoglienza di Samo con 6 feriti e notizia di poco fa, c'è stata una strage di migranti a largo della Libia, 117 le vittime, tra cui almeno 5 bambini. Da domenica è in vigore la legge sulle unioni civili, i sindaci si preparano, alcuni fanno resistenza. Qua non si corre, cartelli e ordinanza di un sindaco della Bergamasca contro i podisti, scatta la protesta. E il Festival dell'Economia folla già dal primo giorno, oggi protagonisti gli enti locali. Ed è proprio da Trento che vi trasmettiamo una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Se volete venire a trovarci, siamo appunto qua a Trento, in piazzetta Pasi, siamo proprio a fianco della piazza del Duomo. I nostri contatti sono i soliti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666 per i vostri sms. Dunque, iniziamo questa puntata parlando di maltempo e andando innanzitutto nello Spezzino, un aggiornamento da Andrea Ferro. Andrea. Sì, buongiorno Simone. In realtà per fortuna la situazione è meno grave rispetto a quanto era trapelato alcune ore fa relativamente a alcuni flash battuti che parlavano di scuole e banche evacuate a Borghetto, una delle località dello Spezzino colpite dalla tragica alluvione del 2011. Poco fa al telefono abbiamo parlato con il sindaco di questo paese, Claudio Vincenti, che ha decisamente smorzato l'allarme dicendo che piove forte ma il torrente Pogliaschina che corre vicino a questa scuola non è comunque vicino ai limiti di guardia, non c'è stata nessuna evacuazione, ha detto io non ho firmato alcun provvedimento di questo genere, semplicemente alcune famiglie hanno preferito recarsi a scuola e prendere i figli e portarli a casa a livello precauzionale, diciamo così individuale. Piove forte, il torrente Vara, che è il principale, che dà il nome alla valle, sta salendo, però siamo ancora non in una situazione di particolare emergenza, la pioggia caduta in abbondanza nella notte, nelle prime ore della giornata, nello Spezzino ha comunque provocato qualche danno, frane, allagamenti anche nella zona di Porto Venere. Più tranquilla la situazione in Val di Magra. Chiaramente è una situazione in evoluzione. Per il momento dalla Liguria è tutto e ti restituisco la linea. E grazie Andrea Ferro per questo aggiornamento. La situazione più grave è certamente tra Francia e Germania. Sentiamo. Donc, il est à craindre aussi qu'au moment de la décrue, on puisse découvrir des victimes. Con l'abbassamento delle acque potrebbero emergere delle vittime, ha detto il ministro dell'Ambiente Ségolène Royal. La Francia teme dunque che ci siano altri morti, oltre a quelli già accertati, a causa della piena della Senna, il cui picco è atteso per questa sera. Annuncio che sarà riconosciuto lo stato di catastrofe naturale, ha dichiarato il presidente francese Hollande, che ha anche sbloccato i fondi necessari. Intanto è finito l'allarme rosso anche nella Seine-et-Marne, il dipartimento ad ovest della regione di Parigi, quello più colpito dall'ondata di maltempo, l'ultimo in cui restava lo stato di massima allerta che ora è passata al livello arancione. Circa 20.000 case restano ancora senza elettricità, mentre i grandi musei della capitale, come il Louvre e il Musée d'Orsay, stanno applicando i piani d'emergenza per mettere a riparo le collezioni. La forte ondata di maltempo in Europa centrale ha colpito pesantemente anche Germania e Romania, dove si registrano centinaia di evacuati. I gravissimi fenomeni meteo che stanno colpendo l'Europa dimostrano la necessità di una lotta su scala mondiale contro il riscaldamento climatico, ha ribadito il presidente francese Hollande. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E cambiamo argomento, gli ultimi fuochi della campagna elettorale. La caccia all'ultimo voto oggi vede impegnati anche i big della politica nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Dalla mezzanotte scatterà il silenzio in vista del voto di domenica. Per il premier Matteo Renzi, dopo una mattinata a Napoli, il programma prevede una serie di appuntamenti a sostegno dei candidati del PD, anche a Bologna, Rimini e Ravenna. Silvio Berlusconi, invece, nel tardo pomeriggio sarà a Ostia, al fianco di Alfio Marchini. In serata, il leader di Forza Italia Italia volerà poi a Milano per sostenere Stefano Parisi. Lo stesso farà il leghista Matteo Salvini, ma in orari diversi. I due quindi, dopo le polemiche degli ultimi giorni, difficilmente si incontreranno nel capoluogo lombardo. Per quanto riguarda infine il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio sarà impegnato a Napoli, mentre a Roma, salvo sorprese, Beppe Grillo non parteciperà al comizio finale della candidata pentastellata Virginia Raggi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche oggi la cronaca ci porta a parlare di violenza sulle donne. Gli inquirenti stanno facendo tutto il possibile per consegnarci la verità, per noi è il tempo del dolore. Così Giorgia ricorda la sorella, Carlotta Benusiglio, 37 anni, trovata morta martedì all'alba in un parchetto in Piazza Napoli, a Milano, a pochi metri da casa. Giorgia e la madre non credono al suicidio. La giovane aveva una sciarpa al collo e i piedi toccavano quasi terra. Nel suo loft c'erano computer, musica accesi e i gatti che non abbandonava mai, racconta una vicina. In più, le tracce di sangue sul letto e un ex fidanzato violento già denunciato e rivisto il giorno prima. L'ennesima storia di violenza arriva dalla provincia di Bologna. Una donna di 33 anni, incinta al settimo mese, è ricoverata all'ospedale per aver ingerito soda caustica. A confessare il compagno 35enne ha versato lui la sostanza nella bottiglia, forse per farla abortire. Fermato invece prima di raggiungere l'ex fidanzato un imprenditore agricolo di Gagliano Castelferrato. L'uomo, armato di coltelli, è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Enna. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovi naufragi nei nostri mari, in Libia e in Grecia. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. È così un dramma senza fine. Nuovi naufragi, altre vittime, questa volta al largo dell'isola di Creta, mentre altri morti sono stati trovati sulle spiagge libiche. Un barcone lungo 25 metri proveniente probabilmente dall'Egitto e diretto verso l'Italia è semiaffondato 75 miglia marine a sud di Creta. C'erano almeno 700 migranti a bordo, 342 sono stati tratti in salvo, riferisce la Guardia Costiera greca, aggiungendo che finora sono stati recuperati già 4 cadaveri, ma il bilancio è destinato purtroppo a salire. E poi in Libia, dove nella città costiera di Zuara ci sarebbero 25 chilometri di spiaggia ricoperti da corpi senza vita di migranti, sono almeno 117 quelli ritrovati secondo la Mezzaluna Rossa locale, alcuni sono bambini, la maggior parte originari dell'Africa subsahariana. Probabilmente si tratta di vittime di naufragi avvenuti all'interno di acque libiche la scorsa settimana. Nuove stragi dunque, nonostante il discusso accordo tra Turchia ed Europa contro il quale si scaglia oggi Amnesty International. L'organizzazione non governativa chiede all'Europa di non rispedire richiedenti asilo in Turchia perché a suo dire non riceverebbero un'effettiva protezione da parte del governo di Ankara. E con questo è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Oggi in una Parigi, come avete sentito, in difficoltà anche per il livello della Senna, nella conferenza su Medio Oriente e Siria, l'analisi di Alberto Negri. Ci sono 30 paesi e tutte le grandi potenze, ma non Israele e palestinesi, alla conferenza di Parigi che si apre oggi. Ambizioso tentativo diplomatico per far ripartire le trattative di pace congelate da 2 anni. Il presidente francese Hollande vuole rilanciare la soluzione due popoli, due stati, ma forse rilancia soltanto se stesso sulla scena internazionale dopo i guai che attraversa in casa. La conferenza ha irritato Israele, che parla di una nuova Sykes-Picot, la spartizione anglo-francese del Medio Oriente di un secolo fa. I confini palestinesi prossimi ai Venturi sono in realtà già stati inghiottiti da un Medio Oriente nel marasma, dove, dopo lo sgretolamento dei vecchi stati come Siria e Iraq, non si capisce come possano nascerne dei nuovi. Per questo Israele gioca facile dicendo che vuol riprendere i negoziati, mentre i palestinesi si illudono che possa cedere e trattare davvero la restituzione di almeno una parte dei territori. Non è così, perché la guerra in corso cambierà ancora dolorosamente la sorte di arabi ed ebrei. Intanto le tensioni tra Germania e Turchia dopo la decisione del Bundestag di riconoscere l'uccisione di massa degli armeni come genocidio resta alta. Il commento è di Ugo Tramballi. Anche la Germania dei banchieri di Wolfgang Schäuble ha un cuore e una coscienza storica. Scavalcando i suoi interessi economici e politici, ha riconosciuto come genocidio il massacro di 1 milione di armeni. Avvenne un secolo fa, quando l'impero guglielmino, alleato della Sublime Porta, fece finta di ignorare quello che i turchi stavano facendo alla loro minoranza armena e cristiana. Questo, e ciò che poi il nazismo fece di più grave con ebrei e zingari, ha spinto il Parlamento tedesco a prendere la sua decisione. Ed è ciò che la Turchia di Erdogan si merita. Ambigua sul suo presente riguardo alla lotta all'ISIS e al suo mestare nel caos medio orientale, come ambigua sul suo passato, rifiutandosi di riconoscere quello che un'altra Turchia in un'altra epoca commise, il paese merita oggi l'isolamento internazionale nel quale si trova sempre di più. Anziché minacciare la Germania di sfracelli diplomatici ed economici, il fratello musulmano Erdogan dovrebbe imparare dai tedeschi come un popolo affronta e risolve i suoi sensi di colpa. Così dunque l'analisi di Ugo Tramballi. Dunque andiamo in chiusura di questa prima parte di Effetto Giorno. Siamo, come vi abbiamo detto in apertura, a Trento per il Festival dell'Economia. Oggi trasmetteremo anche Focus Economia da qua e vi tocca, ci sarò io in diretta. Raccontiamo un po' questo festival e questa prima giornata di festival. Il maltempo non ha fermato i tanti venuti a Trento per ascoltare economisti, ricercatori ed esperti che indagheranno fino a domenica la connessione tra geografia e crescita economica. L'11ª edizione del Festival dell'Economia, inaugurata ieri sotto la pioggia, ha come focus i luoghi della crescita. Oggi è la volta della geografia della corruzione, con il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, mentre c'è attesa stasera anche per la visita del ministro Carlo Calenda. Ma cosa possono fare le istituzioni a livello locale per dare una spinta alla crescita? Lo abbiamo chiesto a Tito Boeri, presidente dell'INPS, qui a Trento in veste di direttore scientifico del festival. Istituzioni che favoriscono, per esempio, un ingresso di talenti nel mercato del lavoro, la possibilità che questi talenti vengano valorizzati, che danno la possibilità di realizzare delle idee trasformandole in innovazioni, sono davvero molto, ma molto importanti. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trento. Questo è il quadro da Trento. Se siete in zona e ci volete venire a trovare, come vi dicevamo, stiamo trasmettendo in diretta da Piazza Pasi, dietro Piazza Duomo. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade. E poi nella seconda parte della trasmissione inizieremo, come sempre, il nostro giro per l'Italia. Inizieremo da Milano, da questa vicenda che per il momento non è per nulla chiara, della ragazza di Carlotta Benusiglio, della donna trovata morta impiccata, dove è una vicenda nella quale non c'è certezza che si tratti di suicidio. Di certo c'era un rapporto difficile con il fidanzato che la picchiava e potrebbe trattarsi di un nuovo caso di femminicidio. Ci occuperemo di unioni civili perché domenica entra ufficialmente in vigore la legge. C'è qualche sindaco che ha deciso di fare resistenza, tra questi c'è il sindaco di Padova Massimo Bitonce, dunque è a Padova che andremo. Poi andremo nella Bergamasca, il sindaco di Gorle, che è un paesino proprio a due passi da Bergamo, ha deciso di affiggere dei cartelli in giro per le strade dicendo qua non si corre, dedicato a chi va in giro la mattina e vuole fare un po' di sport. E ci faremo spiegare da lui perché ha deciso di affiggere questi cartelli, che stanno tra l'altro creando un po' di malumori all'interno del popolo dei podisti della Bergamasca. A tra poco. Smao Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre in diretta da Trento. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della situazione del maltempo, tanto in Francia quanto in Germania e in Liguria, dove c'è qualche problema nello spezzino. Abbiamo parlato dell'ultimo giorno di campagna elettorale, poi scattano, diciamo, finalmente le 24 ore di silenzio al voto. Si va domenica fino alle 23 per le amministrative. Abbiamo parlato dei migranti perché ci sono stati due nuovi naufragi, uno in Grecia e uno in Libia. E ora torniamo a parlare di violenza sulle donne. E lo facciamo insieme a Gianni Santucci, che è un collega giornalista del Corriere della Sera. Buongiorno Gianni, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, le vicende sono molte in realtà in queste ore che si accavallano e i giornali giustamente le affiancano. Da una parte la storia della quale parleremo tra un attimo, quella di Carlotta Benusiglio, 37 anni, che l'hanno trovata morta, apparentemente impiccata, ma stanno sorgendo dei dubbi su questa vicenda perché appunto c'erano dei rapporti con il fidanzato e delle denunce a carico del fidanzato che l'aveva picchiata. Di questa mattina la notizia di un uomo che ad Enna è stato arrestato, aveva con sé delle armi da taglio ed era diretto a casa della sua ex. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato ampiamente la vicenda della ragazza uccisa e bruciata viva a Roma. Appunto, noi vogliamo andare adesso su questa vicenda di Milano, che inizialmente sembrava un caso di suicidio e mentre invece sembra essere, Gianni, qualcosa di diverso, no? Diciamo che è una storia complessa perché abbiamo due elementi fondamentali. Allora, il primo è che sicuramente tutti gli elementi raccolti finora dalla polizia lasciano pensare a un suicidio. C'è anche una cosa che bisogna considerare, che se non si trattasse di suicidio, ma visto che questa ragazza è stata trovata impiccata a un albero in una piazza, simulare un suicidio in un luogo pubblico e quindi far passare un omicidio simulando una scena di suicidio è un'ipotesi molto improbabile. Quindi questo è per ora rimane ancora un punto fermo. Dall'altro punto di vista, purtroppo questa ragazza aveva una storia molto complessa di violenze subite in passato. Quindi siamo in una fase nella quale bisogna considerare i dati di fatto, per cui l'ipotesi per ora giudiziaria è soltanto di un suicidio, ma che va assolutamente approfondita fino nell'ultimo dettaglio, perché la storia passata pregressa di violenze è comunque apre uno scenario molto più complesso. Sì, diverso e più complesso. Ci sono anche dei dubbi che solleva per esempio la sorella Giorgia, che tra l'altro è stata spesso ospite di Radio 24 perché è una ragazza che si è impegnata in una campagna contro l'uso della droga, perché è stata costretta ad un trapianto di fegato dopo aver assunto una pasticca di ecstasy, e la sua storia l'abbiamo raccontata oggi in una serie di interviste, tra l'altro anche a voi sul Corriere della Sera. Dice: ho molti dubbi perché ha lasciato il PC acceso, perché aveva pronto un vestito per l'amica, e anche dal punto di vista della ricostruzione c'è questa vicenda dei piedi che toccavano terra sostanzialmente. Certo, diciamo che ecco, gli ultimi giorni di questa ragazza non danno assolutamente l'idea di una persona che sia come dire, sprofondata in una sensazione di depressione e di crisi, perché sia a breve che a medio termine lei aveva da poco intrapreso questa, aveva avuto successo nell'intraprendere questa carriera di stilista, e allo stesso tempo aveva dei progetti anche a brevissimo termine, un viaggio con la sorella in Sicilia, un vestito che aveva disegnato apposta per una sua amica che si sarebbe sposata e quindi lei sarebbe andata al matrimonio, e quindi non dava assolutamente l'idea di una ragazza che fosse un po' alla deriva, che si stesse un po' abbandonando. Era una ragazza che programmava il suo futuro, e questo è uno degli elementi che si aggiungono a quello scenario complesso di cui parlavamo prima. Così come il computer lasciato acceso in casa con la musica che andava, e alcune macchie di sangue che sono state trovate sul letto di questa ragazza. Quindi, come adesso l'importante sono due elementi. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire fino al minuto tutta l'ultima giornata di questa ragazza, e allo stesso tempo molte risposte probabilmente potrebbero arrivare dall'autopsia che è in corso, e molto probabilmente ci riuscirà a stabilire se questa ragazza sia morta soltanto per il suicidio o se avesse altre lesioni che potrebbero far pensare che nelle ultime ore sia successo qualcos'altro. Ti ringrazio, grazie a Gianni Santucci, giornalista del Corriere della Sera, per averci aiutato a chiarire, o meglio a capire quali sono i dubbi che circolano intorno a questa vicenda. E da Milano ci spostiamo a Padova, siamo con Massimo Bitonci che ne è il sindaco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a tutti. per parlare con lei del fatto che domenica entra in vigore la legge sulle unioni civili. E lei aveva detto, quando è stata approvata, ha detto: guardate, io non celebrerò un'unione civile mai, lo ricordiamo, Massimo Bitonci è della Lega. Ha intenzione di opporci in qualche altro modo o il Comune dovrà adattarsi al fatto che inevitabilmente c'è una legge dello Stato e va applicata? Ah, entra in vigore una norma, però ovviamente attendiamo anche tutti i regolamenti relativi all'anagrafe, cioè verificheremo se questi sono equiparabili ai veri matrimoni oppure saranno degli accordi da firmare davanti a qualsiasi funzionario dell'anagrafe e quindi del comune. Quindi stiamo verificando e verificheremo ovviamente puntualmente la normativa. La mia è una posizione ovviamente personale, ho sentito molti altri sindaci che comunque faranno come faccio io non ho nessuna intenzione di celebrare degli pseudo matrimoni tra persone dello stesso sesso. Io penso che questa sia una questione morale in cui si possa fare obiezione, come si fa su altre tematiche importanti della nostra vita quotidiana. Io non penso che nessuno possa essere costretto a fare dei matrimoni tra persone del stesso sesso se moralmente non lo vuole fare. Ricordo anche le parole del Papa, sì. Ne parlava non solo di sindaci ma parlava anche di funzionari, quindi estendendo anche questa possibile obiezione anche ai Bitonci. Mi scusi Bitonci, lei ritiene davvero che i funzionari possano fare una sorta di possano praticare una sorta di obiezione di coscienza di fronte a tutto questo? Ma se non saranno dei funzionari, saranno degli altri, cioè nel senso che io penso che comunque il funzionario possa tranquillamente dire che non è d'accordo e quindi lo farà casomai un collega. Ripeto, non voglio fare esempi che sì. Magari non possono essere utilizzati. Però quello che voglio capire, Bitonci, io sono un dipendente, mi obbligano comunque a celebrare un matrimonio tra persone dello stesso sesso e io non sono d'accordo, ci sarà forse qualche collega che sarà disposto a farlo. Che sarà disposto a farlo. Un'ultima cosa, Bitonci, mi sembra di aver capito che lei non ha intenzione, come dire, di fare una sorta di opposizione amministrativa all'applicazione di questa legge, no? Ma assolutamente, io non ho mai fatto cose di questo tipo, io ho sempre operato attraverso le norme, magari interpretando le norme, facendo delle ordinanze anche nel campo della sicurezza pubblica. Io nel 2008 ho ricevuto un avviso di garanzia per aver fatto un'ordinanza sul controllo delle abitazioni e un'ordinanza quindi sulla sicurezza, che poi è diventata una norma perché successivamente nel 2008, come tutti sanno, il decreto Maroni ha dato per la prima volta ai sindaci la possibilità di fare delle ordinanze non solo in materia sanitaria ma anche nel campo dell'ordine pubblico. Noi siamo esposti e lo facciamo attraverso atti di questo tipo, ma mai contro ovviamente la legge. La legge dello Stato. La ringrazio, Massimo Bitonci, sindaco di Padova. Le auguro una buona giornata e parliamo con un altro sindaco adesso di un paese a pochi chilometri da Bergamo, anzi praticamente affiancato a Bergamo, che si chiama Gorle. Abbiamo in linea il sindaco, appunto, Giovanni Testa. Buongiorno, sindaco. Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, quel che ho capito, lei ha fatto piazzare una serie di cartelli in strade normalmente frequentate da podisti, a gente che va a correre, che si allena la mattina, il pomeriggio o quando è, dicendogli qua voi non potete correre. Ci spiega perché? Ma guardi, anzitutto abbiamo messo due o tre cartelli, giusto per mettere un po' anche l'elemento corretto. E questi cartelli in realtà non fanno altro che ricordare un divieto che non sancisco io, non sancisce il sindaco di Gorle, ma è previsto dall'articolo 190 del codice della strada. Sì. Ecco perché le dico, non c'è un'ordinanza ad hoc per questo, è una legge che vale da Lampedusa fino alla vetta d'Italia in Alto Adige, vale in tutta Italia. E quindi personalmente mi stupisco anche di questo clamore per un divieto che c'è in qualsiasi comune d'Italia. Sì, ho capito, d'accordo, però qua c'è una protesta da parte dei podisti, tra l'altro ne abbiamo uno di Gorle che ci scrive in questo momento via SMS e dice insomma chi si allena davvero non può stare sul marciapiede, tra l'altro il marciapiede è messo malissimo, ma perché impedire alla gente di correre sul lato della strada? Che problema c'è? Ma guardi, anzitutto è un discorso di sicurezza. La norma del codice della strada va a tutelare proprio il pedone, o meglio il corridore in questo caso, che si troverebbe a correre laddove passano le auto e rischiando anche... Gorle non è un comune no running, come dire, insomma, cioè, non è mai impedita, guardi, di correre. Non solo, a parte che lo faccio anch'io quando mi capita, standomene però dove posso stare, cioè noi abbiamo un bellissimo parco, anzi ne abbiamo cinque, ma ce n'è uno proprio a pochi metri da questo viale Zavaret, che ha un anello interno di 800 metri dove non passerà mai una macchina. Abbiamo uno sviluppo, sebbene il paese di 2,44 km quadrati, abbiamo uno sviluppo di molti chilometri di piste ciclopedonali. A me sembra un po' pretestuoso voler correre in mezzo alla strada. Perché leggo qua, leggo qua dalla Repubblica, ci sono state anche proteste, no? Anche sui social contro di lei. Ma guardi, se la gente protesta per un divieto che c'è in tutta Italia, che va a tutelare proprio la loro incolumità, bene, sono fiero di essere attaccato, perché vuol dire che io sono al posto giusto. Forse chi invece alimenta per motivi personali, politici, oppure semplicemente perché non ama le regole e ama invece l'anarchia, se questo ritiene che sia giusto così, ecco, non venga a Gorle, però, perché a Gorle ci sono cittadini, e sono tantissimi, che rispettano le regole. Io amo parlare con queste persone. E dico che corrono dove si deve correre, dice lei. Ma poi guardi, io invito tutti quanti a venire a farsi una bella corsa anche con me, che fa bene anche tra l'altro correre, e andiamo anche insieme per le piste ciclopedonali di Gorle, dove si può correre in sicurezza senza avere le auto che sfrecciano accanto o che passano. Poi guardi, ne approfitto per dire quanto amiamo lo sport a Gorle e mi permetto di rubare qualche secondo alla sua trasmissione per annunciare quello che il Consiglio Comunale... Non facciamo annunci, Sindaco, no, per carità, guardi, davvero, la prego, anche perché dobbiamo chiudere, mi sembra che si sia spiegato abbastanza, tutto sommato. La ringrazio, grazie a Giovanni Testa, Sindaco di Gorle, per essere stato con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede, come sempre, a quest'ora sui mercati, e poi nella seconda parte della trasmissione andremo a vedere qual è la situazione ad Orvieto, dove ci sono state una serie di scosse sismiche, c'è un po' di preoccupazione tra la gente, è stato allestito un centro in una palestra per chi avesse troppi timori, e poi torneremo a ridosso del confine di Ventimiglia, dove si sta preparando un'ordinanza da parte del sindaco, un altro sindaco, oggi va così, il sindaco di Bordighera, un'altra ordinanza che riguarda invece i migranti e che dice... devono presentare il certificato medico, altrimenti non possono circolare in quest'area. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: ci sono stati nuovi naufragi di migranti in Grecia, 700 persone, ci sarebbero centinaia di dispersi secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e 117 vittime in Libia. In Francia è parzialmente rientrata l'emergenza per la piena della Senna, soprattutto a Parigi ci sono comunque 20.000 case senza elettricità e il rischio che si trovino nuove vittime secondo il governo. Sono gli ultimi fuochi di campagna elettorale, poi 24 ore di silenzio al voto domenica fino alle 23 per le amministrative. Si indaga sulla ragazza di Milano trovata morta impiccata in una piazza, ci sono dubbi sul fidanzato. Da domenica è in vigore la legge sulle unioni civili, i sindaci si preparano e, come avete sentito, alcuni fanno resistenza. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo dunque dopo gli aggiornamenti sui mercati. Oggi va così, è giornata nella quale parliamo con molti amministratori locali, del resto siamo in diretta da Trento al Festival dell'Economia, quest'anno il tema sono i luoghi della crescita, si parla molto di territori e quindi va bene così. Giacomo Pallanca, sindaco di Bordighera, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Per parlare della situazione dei migranti nei vostri territori. Abbiamo parlato nei giorni scorsi molto della pressione che sta subendo Ventimiglia con persone che continuano ad arrivare e che evidentemente fanno pressione sul confine e non possono passare. Alcuni addirittura non si fanno identificare perché vogliono andare direttamente in Francia a raggiungere le famiglie. E abbiamo letto che lei starebbe preparando un'ordinanza nella quale chiede i certificati medici di queste persone che passano dal suo territorio. Ci spiega un po' meglio? Beh, non è proprio così. In realtà questa possibilità nasce a seguito di un problema che dopo l'ordinanza di sgombero fatta dal sindaco di Ventimiglia, poiché si era creata una tendopoli in un sul greto del fiume Roia, queste persone in un certo momento nella giornata di domenica non sapevano dove andare e il vescovo ha proposto di realizzare una tendopoli presso il seminario che è in Bordighera, nel centro urbano. Sì. Sì. Seminario che è di fronte all'ospedale del comprensorio. Sì. Naturalmente cosa succede? Che queste persone qua, come lei ha accennato, sono persone che non hanno deciso di non intraprendere quel percorso di legalità, vale a dire della identificazione e poi dopo tutto quello che ne consegue per sì. ottenere eventualmente lo status di profugo o di vittima di guerra o di asilo politico. Lei capisce che l'inserimento di una tendopoli di 100 persone non identificate, senza certificato sanitario, in un centro urbano, prospiciente ad un ospedale pubblico che serve un comprensorio di 60.000 persone, che in questo periodo raggiungono i 100.000, perché cominciamo con col periodo estivo, era una soluzione, secondo me, assolutamente non accettabile. Sì, capisco che per un sindaco possa rappresentare un fronte di preoccupazione, evidente, sì. Assolutamente sì, perché comunque sì, il sindaco è massima autorità sanitaria nel proprio comune. Questo vuol dire sì. che deve tutelare la salute di tutti i cittadini e degli ospiti della propria città. Siccome questa soluzione che era stata prospettata e che poi dopo è stata ripiegata sulla parrocchia di Roverino, sempre su Ventimiglia, ha visto da 100 persone che erano domenica oggi essere 400. 400 persone sono al momento. Esattamente, perché comunque il flusso è costante, seppur non grandissimo, ma comunque costante. Si parla dell'ordine delle 50 persone che ogni giorno arrivano su Ventimiglia. Lei comprende che il problema in realtà è inutile nascondersi dietro un dito, è ben più articolato. Siccome la problematica Ventimiglia è un problema che si conosce da più di un anno, perché non è un fenomeno dell'altro giorno, che quindi ci troviamo ad affrontare un'emergenza non prevista. È passato un anno, l'anno scorso era esattamente la stessa situazione, con il picco massimo naturalmente nei periodi estivi, ma questo è certamente correlato poi dopo ai flussi migratori, che grazie alle condizioni... Naturalmente, ma lo stiamo vedendo, le cronache di oggi, lo abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, ci raccontano ancora di nuovi naufragi, 700 persone a largo della Grecia e ci sarebbero decine di dispersi secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e 117 vittime a largo della Libia, tra cui almeno 5 bambini. Gli arrivi, lo stiamo raccontando, stanno proseguendo a ritmo molto alto. Prego, sindaco. No, ma questo è chiaro che è una tragedia umanitaria a livello mondiale, è inutile. L'Italia è posta in prima linea, poiché siamo, Italia e Grecia sono le due nazioni che sono il ponte per l'Europa. Tornando purtroppo a parlare più nel piccolo, vale a dire in maniera un po' sì. più egoistica, se mi permettete, del nostro comprensorio, il fenomeno era già noto da un anno. È stato chiuso il centro di prima accoglienza, ma è stato chiuso e le persone che erano dentro naturalmente sono state tolte, ma non è stata trovata una soluzione. Ora, senta sindaco, vorrei capire questo. Lei vede, abbiamo raccontato in questo periodo, in questi anni in realtà di crisi dei migranti, abbiamo raccontato molto spesso quello che avviene a Calais, diciamo a ridosso della Manica, no? Dove i migranti vogliono passare dalla Francia in Gran Bretagna. Lei vede il rischio che dalle vostre parti, a Ventimiglia, a Bordighera, in quell'area là, si crei una sorta di Calais europea e quindi un luogo dove la gente si ferma e di fatto si creano delle vere e proprie tendopoli, dei veri e propri campi profughi, con la gente che attende di passare dall'altra parte, che attende di andare in Francia? Beh, ma è chiaro che quanto è successo a Calais, i numeri sono ben diversi, i nostri da Calais, come gli ho detto. E ovvio, sindaco, però dico di 50 in 50, insomma, no? Di 50 in 50, naturalmente, i numeri Caritas che fanno riferimento a un anno, che abbiamo avuto un passaggio di 3.500 persone. Che pur essendo piccoli numeri giornalieri, comunque sia sono grandi numeri sull'anno, ed è proprio lì che io mi chiedo, ma com'è possibile che dopo un anno che si hanno questi numeri ci si trovi ancora a dover parlare come fare la prima accoglienza o trovare una sistemazione decorosa, umanitaria, per queste persone che già hanno fatto un percorso di vita difficilissimo e con mille difficoltà e con in mano a sciacalli che li hanno anche derubati dei loro soldi. Cioè, dobbiamo trovare una soluzione. Allora, è sottinteso che non possono essere i sindaci a trovare soluzioni. Sindaci hanno altri obblighi. Uno di questi, come ho detto prima, è la tutela dei propri cittadini, d'accordo? Il percorso, quello che più dispiace è che comprendo la paura che la identificazione possa essere una preclusione per i piani che si sono posti queste persone. Ma non è neanche un discorso accettabile che si possa permettere che girino sul territorio, io parlo in questo caso del nostro comprensorio, sì. Persone che non si sa chi sono, non si sa da dove arrivano, ma soprattutto... Per chiudere mi scusi sindaco, siamo quasi in chiusura, per chiudere, ha intenzione di vararla questa ordinanza, di dare il via libera a questa ordinanza in maniera preventiva oppure no? Io che ho detto e che ho chiarito è questo discorso, la struttura del seminario che è della Curia, è una struttura che ha più di 100 posti letto, d'accordo? Sì. 100 posti letto che vuol dire letto, bagni e docce, ok? Quindi una struttura che è decorosa. Sì. Una tendopoli non è una struttura decorosa per queste persone. Quello che ho detto è molto semplice. La soluzione del seminario potrebbe andare bene a patto, appunto, come diceva lei, che ci siano delle tutele per i suoi cittadini. Molto semplicemente. È sufficiente che all'interno già ce ne sono 19 che hanno fatto questo percorso, che sono identificati e che hanno il certificato sanitario. Il Vescovo ne vuole accogliere 100? 100 che siano con identificati e con certificato sanitario. Nessun problema, non siamo noi a chiudere le porte, ma ci sono delle regole. Come faccio a rispettare le regole? I miei cittadini... Sindaco, è chiarissimo, ma io devo chiudere. La ringrazio, grazie a Giacomo Pallanca, sindaco di Bordighera. Volevamo aggiornarvi anche sulla situazione del terremoto ad Orvieto, ma come spesso accade, diamo appuntamenti telefonici alle persone che non rispondono. Nella fattispecie diamo nome e cognome. Giuseppe Germani, sindaco di Orvieto, e quindi se qualcuno di Orvieto ci sta ascoltando, avverta il sindaco che l'abbiamo cercato. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.